Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Il numero per gli sms, come sempre, è il 349-238-6666. I temi di oggi. Oggi parleremo della privatizzazione, parziale naturalmente, di Poste Italiane. Oggi è arrivato l'annuncio dal Ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, da Davos. Ha detto che domani il Consiglio dei Ministri discuterà, tra le altre cose, anche di questo. E vedremo di fare un approfondimento anche sulle altre privatizzazioni, posto che qua si sta ragionando sulla parte forse più grossa, più importante, insieme a questo 3% di Eni che si vuole mettere sul mercato, perché parliamo del primo datore di lavoro del paese, 145.000 dipendenti, e che, come ben sapete, non si occupa solamente di portare la corrispondenza da una parte all'altra del paese, ma è di fatto anche una banca e un'assicurazione. Questo sarà il nostro primo tema e poi andremo proprio a Davos, dove invece al World Economic Forum il tema che sta attraversando un po' tutte le discussioni è questo rischio di deflazione che incombe, che viene negato al momento dai banchieri centrali, anche se per esempio il capo economista del Fondo Monetario Internazionale, Olivier Blanchard, dice c'è un 10-20% di possibilità che l'Europa vada in deflazione. Ci sono molti economisti preoccupati da questo punto di vista e vedremo appunto che cosa succede a Davos e che cosa si sta dicendo in giro. Oggi lo stesso Draghi, tra l'altro, in un'intervista ad un quotidiano, se non erro austriaco o tedesco, insomma, ad un quotidiano tedesco, dice appunto che i rischi di deflazione sono limitati. Ne parleremo perché su questi temi è intervenuto anche il premier giapponese Shinzo Abe, dicendo la nostra strategia sta funzionando e c'è anche un'apertura di credito da questo punto di vista dalla direttrice del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde. Parleremo della Sicilia. Che cosa è successo? È successo che il commissario dello Stato ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale, vi assicuro che capita anche ai giornalisti di ignorare molte cose, io apprendo oggi che esiste un commissario dello Stato alla Regione Sicilia. Nella sostanza il commissario dello Stato ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale oltre la metà della legge di stabilità siciliana, che è di fatto la manovra finanziaria della Sicilia, per una serie di motivi. Tra le altre cose, la cosa che sta facendo notizia in queste ore è il fatto che il commissario ha impugnato anche la norma sulle coppie di fatto e non l'ha impugnata per questioni ideali o ideologiche, l'ha impugnata per questioni economiche, per questioni di uguaglianza di fronte alla Costituzione. Approfondiremo tutto questo, ne parleremo con l'assessore all'economia della Regione Sicilia, che poi è la persona che insieme al Presidente ha di fatto firmato questa manovra. C'è a questo punto anche la richiesta di dimissioni della Giunta che arriva dall'opposizione, è quasi scontata, però insomma questo è un altro dei temi che toccheremo. Parleremo di Equitalia perché è partita la sanatoria per le cartelle, è arrivata oggi la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, riguarda anche le multe, riguarda i bolli auto, insomma cercheremo di capire esattamente che cosa vuol dire. Scadenza il 28 febbraio, ci sono già 200 adesioni. Naturalmente parleremo di borse, borse che questa mattina almeno a Milano le cose andavano piuttosto bene fino a metà giornata, nel senso che era positiva anche se non andava benissimo, un più 0,3% guadagnava il FTSE MIB, adesso cede lo 0,7%, il FTSE All Share altrettanto, peggio fa il resto d'Europa, Francoforte lascia sul terreno un punto percentuale, Parigi un altro punto percentuale, Londra lo 0,87%, hanno virato al negativo le borse europee quando è arrivata l'apertura di Wall Street, parzialmente depressa anche da dati sui sussidi di disoccupazione non particolarmente positivi, e che evidentemente in America non ci si attendeva che fossero così. Standard & Poor's cede 1 punto percentuale, lo Standard & Poor's 500, mentre invece il Dow Jones cede 1 punto percentuale. Questi i temi di oggi, le notizie in breve. Iniziamo dalle materie prime, come sempre. L'oro su dell'1,8%, $1,261 l'oncia. Petrolio in risalita, il WTI un più 0,57%, $97,28 al barile. Il Brent invece in lieve calo dello 0,6% a $107,6 al barile. Altra notizia di oggi dal Giappone, appunto, e poi ci torneremo sul Giappone per i motivi che si dicevano. Toyota ha venduto quasi 10 milioni di veicoli nel 2013, si è confermato leader mondiale del settore. L'obiettivo è di superare appunto la soglia di 10 milioni fino a salire a 10,32. Nel frattempo la Commissione europea ha deciso di aprire una procedura di infrazione nei confronti della Germania per l'uso da parte di Daimler di un refrigerante non a norma, in quanto ritenuto inquinante. Il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, intervista a questo quotidiano, abbiamo detto tedesco, abbiamo detto austriaco, in realtà è un quotidiano svizzero e si chiama Neue Zürcher. Le banche deboli europee dovrebbero uscire dal mercato, dice Draghi. Dopo l'esame della Banca Centrale Europea stiamo prendendo la cosa molto seriamente. Nel caso dovesse emergere qualche debolezza, la metteremo in luce e prenderemo le appropriate contromisure. Sulla ripresa, vediamo alcuni segnali incoraggianti, ma la ripresa è ancora debole e incostante. I rischi restano ancora orientati al ribasso. Così io sarei cauto su un eccessivo ottimismo. Dio, quanto sono complicati i banchieri centrali, anche giusto, però insomma, cauto su un eccessivo ottimismo, vuol dire, immagino, parzialmente ottimista. Dice Draghi che i rischi di deflazione nell'area euro sono limitati e non vi sono rischi nemmeno per l'inflazione, e questo insomma è sotto gli occhi di tutti. Le aspettative sono saldamente ancorate nel medio termine agli obiettivi della banca centrale. Anche il ministro Saccomanni interviene sulla deflazione. Ci sono rischi di uno scenario di questo tipo? E l'Italia dovrebbe ispirarsi al modello giapponese? Direi di no, risposta di Saccomanni. Notizia importante per la Spagna, che a mezzanotte uscirà dal programma di aiuti europeo. I mercati finanziari si sono stabilizzati, le banche hanno più liquidità, la loro solvibilità resta stabile, i depositi crescono e l'accesso ai finanziamenti è migliorato. Parole del commissario agli affari economici e monetari Olli Rehn. Che si rivolge anche all'Italia e le dice, e ci dice, la forza risiede nella ricchezza di arte, architettura, cibo, nelle creatività e nelle risorse dei suoi abitanti. La sfida ora è di cambiare ciò che le impedisce di trarre vantaggio dal suo enorme potenziale di crescita. L'Italia deve proseguire le riforme. I dati I dati sul commercio extra europeo che sono arrivati dall'Istat, un più 1,3% nel 2013, crollano le importazioni del 9,5%. Nel solo mese di dicembre le esportazioni sono salite del 2,1% rispetto all'anno prima, un più 7% su un mese. Crescono le esportazioni per l'intero 2013 verso i paesi OPEC, più 6,3%, verso la Cina, più 9,5%, verso la Russia, più 8,2%, verso il Giappone, più 7%, calano verso la Svizzera dell'11%, crescono verso gli Stati Uniti dell'1,5%. Ci sono anche dati di assogestioni, boom del settore risparmio gestito nel 2013, l'industria ha archiviato il miglior risultato dal 99 con una raccolta positiva di 65 miliardi di euro, recuperando così dei flussi 2011 e 2012, patrimonio da 1.331 miliardi. Notizie di cronaca che arrivano sempre dalla solita procura di Trani, che è quella che spesso indaga sui derivati. Il presidente di BNL, Abete, il vicepresidente Sergio Pietro Erede, l'amministratore delegato e direttore generale Fabio Gallia sono indagati per concorso in truffa per aver predeterminato le condizioni per la negoziazione di contratti derivati ritenuti truffaldini. BNL ribadisce la correttezza e linearità dei comportamenti tenuti dai propri esponenti coinvolti. È una nota della banca. Il contratto derivato stipulato, dice, non aveva alcuna funzione speculativa, ma era di copertura di un finanziamento di 3 milioni di euro a tasso variabile. La Guardia di Finanza ha individuato nel 2013 51,9 miliardi sottratti alle tasse. Sono stati scoperti 8.000 evasori totali, irregolare uno scontrino su tre. Maria Luisa Pezzali ha intervistato il colonnello Gianluca Campana. Si tratta di interventi che hanno riguardato il contrasto ai fenomeni di evasione più gravi e pericolosi. Nella nostra azione noi abbiamo individuato e denunciato alle procure della Repubblica quasi 13.000 responsabili di reati, di cui 202 sono stati arrestati. Si tratta quindi non di contribuenti in difficoltà, ma di veri e propri criminali fiscali. Nei confronti di questi soggetti noi abbiamo inoltrato proposte di sequestro di beni, ecco, per valori corrispondenti a imposte evase per 4 miliardi e mezzo, di cui 1,5 già sequestrati. Questo è frutto degli interventi nei confronti della grande evasione, nei confronti di soggetti per i quali sono stati acquisiti indizi certi e concreti di evasione fiscale e che utilizzano le maglie dell'ordinamento, spesso anche le consulenze di professionisti, per evadere il fisco, ricorrendo a fenomeni di evasione internazionale, spostando all'estero fittiziamente la residenza, oppure continuando a svolgere attività economica e professionale senza presentare le dichiarazioni. Colpisce il dato sugli evasori totali, più di 8.000, chi sono? La figura degli evasori totali, cioè i soggetti che svolgono attività commerciale e professionale e che non presentano la dichiarazione, interessa un po' tutti le categorie economiche e taglia in maniera trasversale un po' tutta la penisola. Non ci sono aree o settori in cui questo fenomeno si possa dire essere più presente di tutti gli altri. In questo caso abbiamo riscontrato lo scorso anno che questi evasori totali avevano occultato al fisco redditi per oltre 16 miliardi di euro e si sono resi responsabili anche dei reati di omessa presentazione della dichiarazione. Ci sono casi casi storie più significative di altri? Gli episodi sono numerosi e diversificati. Sul fronte della lotta all'evasione internazionale abbiamo individuato una serie di istituti di credito che stipulavano fittiziamente all'estero contratti di finanziamento per non pagare l'imposta sostitutiva per oltre 380 milioni di euro. In altri casi abbiamo individuato società operante nel settore della moda che avevano abbattuto le imposte in maniera indebita facendo riferimento alla disciplina dei prezzi di trasferimento, oppure anche di imprese nel settore crocieristico che avevano fittiziamente trasferito la società all'estero. Adesso parliamo di privatizzazioni, perché domani il Consiglio dei Ministri dovrebbe dare il via libera alla privatizzazione di Poste Italiane. Sul mercato andrebbe il 40% della società e il debutto in borsa dovrebbe avvenire nel giro di 5-6 mesi. Una quota tra il 2 e il 5% dovrebbe essere assegnato gratuitamente ai dipendenti, il 50-60% della quota riservata a investitori istituzionali. Un gruppo che, come si diceva e come ben sapete, non si limita a trasportare corrispondenza o pacchi, ma anche un'attività bancaria e assicurativa. Giro d'affari da 20 miliardi l'anno, 145.000 dipendenti, il primo datore di lavoro del paese e la prima banca per numero di sportelli, eh? Gianni Dragoni del Sole 24 Ore, buongiorno. Buonasera, sai, insomma, facendo anche la trasmissione dall'una alle due ogni tanto, insomma, perdo un po' il giro degli orari. Allora, buonasera dunque, ricominciamo da capo. Buonasera. Allora Gianni, è il pezzo forte di questa delle ipotesi di privatizzazioni di questo 2014, insieme probabilmente al 3% dell'ENI. Con la differenza che l'operazione sulle Poste, di cui lo Stato possiede tutto il capitale, con il prossimo decreto che domani il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare, richiederà ancora alcuni mesi, sembra però un'operazione che si potrà realizzare entro quest'anno. Sulla vendita del 3% dell'ENI c'è ancora incertezza, in quanto pur avendola il governo prevista, era inizialmente contemplata un'operazione finanziaria di riacquisto di azioni proprio dell'ENI, in modo da non far scendere lo Stato, che oggi è al 30%, di non farlo scendere quindi al 27%, perché questo esporrebbe alla possibilità, al rischio anche di una scalata l'ENI. Allora, siccome il riacquisto richiede più tempo, richiede anni, non è detto che questa operazione venga fatta. Allora Gianni, su tutto questo giro di privatizzazioni e in particolare naturalmente sulle Poste si stanno sollevando, lo vedo già via SMS al 349-238-6666, gli ascoltatori che ci scrivono si sollevano i dubbi, dicono speriamo che non la svendano, insomma vista l'esperienza che abbiamo sulle precedenti privatizzazioni, no? Qualche timore c'è. C'è un'esperienza peraltro recente di pochi mesi fa proprio sulle Poste in Gran Bretagna, sono state la Royal Mail, è stato ormai ultimo gioiello della corona inglese, è stata venduta, in realtà è stata svenduta perché le azioni dal giorno del collocamento poi sono salite fino credo a circa il 70%, e c'è stata diciamo anche un'inchiesta comunque in Parlamento, è stata un po' messa sotto accusa la procedura perché è stato accusato il governo, il tesoro di aver svenduto, anche la banca principale che ha curato l'operazione, uno dei, diciamo, dei grandi nomi della finanza aggressiva di Wall Street, la Goldman Sachs, è stata chiamata a rendere conto. Quindi è chiaro che la privatizzazione di un gruppo così grande, che potrebbe coinvolgere quindi come destinatari centinaia di migliaia se non milioni di risparmiatori oltre ai dipendenti, è un'operazione come quelle fatte sull'ENI o sull'ENEL molti anni fa, dovrà tener conto sì di dare la possibilità a chi riceve le azioni, a chi compra, di avere un incremento del valore in borsa, di guadagnare, ma neanche di svendere un patrimonio pubblico. Quindi questa è la difficoltà maggiore che attende l'operazione. Tra l'altro ci sono ascoltatori che dicono, ma insomma, perché vendere un'azienda che va bene? Allora, l'osservazione è corretta e mi trova d'accordo. Allora, quando il problema in questo caso è che il venditore è un soggetto, cioè lo Stato, molto indebitato, e quindi cerca in questo modo di tamponare un poco il suo problema, che sono i debiti, e quindi siccome è difficile, anzi impossibile, vendere un'azienda che va male, si vanno a vendere le partecipazioni in aziende che vanno bene. Detto questo, il problema però di base, cioè quello del debito elevato, 2.100 miliardi a novembre, dello Stato italiano, non viene risolto incassando 3, 4, 5, 10 miliardi di euro, quindi se è per quello il problema rimane del tutto irrisolto. Naturalmente, e comunque bisogna dirlo, non è che mette in vendita la quota di maggioranza i Poste dello Stato, no? Quindi... Non subito, almeno non in questa prima fase. Io credo, ripeto, che ricalcherà questa operazione quelle fatte su grandi società pubbliche, grandi gruppi pubblici come sono stati l'ENI e l'Enel, in cui intorno alla prima volta fu venduta una tranche intorno al 20-30%, si potrebbe arrivare forse anche al 40% in questa occasione, e poi si andrà avanti. Comunque di quei gruppi lo Stato mantiene tuttora il controllo con il 30%, credo che anche con le Poste l'intenzione, il percorso sarà largo. Grazie Gianni Dragoni del Sole 24 buonasera, Ore, ciao, buonasera. Chi scrive, dato che abbiamo dato poco fa la notizia dell'indagine della procura di Trani sui vertici di BNL, no, ma guarda, non si manifesta alcuna arroganza nei confronti della procura di Trani, semplicemente che la procura che indaga più spesso su queste cose, insomma, poi con risultati alterni. Parla il ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni, sempre a Davos, in un'intervista alla CNBC, dice: la ripresa in Italia è in atto, ma occorrerà del tempo prima che la disoccupazione cali. E poi parla di elezioni. Non credo che le elezioni anticipate possano risolvere la situazione. Il risultato non è stato chiaro, nessun partito aveva la maggioranza. Sarà necessario tornare al voto, ma solo dopo il semestre europeo. La borsa. Chiara Di Cristoforo, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Simone. Allora, fino a metà giornata andava tutto bene, insomma relativamente bene, Milano guadagnava uno 0,3% più o meno ed erano lievemente negative le altre piazze finanziarie europee. Poi che cosa è successo? Ma poi a dare il tono alla giornata c'è stata l'apertura di Wall Street in rosso, in questo momento è in calo dell'1% il Dow Jones e dello 0,9% il Nasdaq, preoccupata soprattutto per le notizie che sono arrivate nella notte dalla Cina. È arrivato questo dato importante che è il PMI manifatturiero, cioè l'indice dei direttori degli acquisti, è un indice che dà un po' la tendenza di quello che sarà l'attività manifatturiera nel mese futuro, nel mese prossimo, e inaspettatamente è sceso sotto il livello dei 50 punti, un dato che indica contrazione. Segnali preoccupanti dalla Cina significano segnali preoccupanti per le esportazioni, e questo è bastato per far andare giù un po' tutto. Andare giù un po' tutto vuol dire che Milano chiude con un calo dello 0,7% sul FTSE MIB e altrettanto sul FTSE All-Share, che le altre borse cedono più o meno un punto percentuale tutte, meno 0,92 Francoforte, un punto Parigi e lo 0,8% Londra. Veniamo ai singoli titoli e partirei dai migliori, Fiat più 2,6%. Allora, Fiat stamattina guadagnava anche 4 punti a un certo punto della giornata. Qui l'attesa per i conti che arriveranno la prossima settimana, saranno approvati il 29 gennaio. Ieri sono arrivate le stime del consensus degli analisti, quindi la media di quello che si aspettano gli analisti. Per l'intero 2013 la redditività dovrebbe essere in calo, però il quarto trimestre è in netto miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2012. Questo fa ben sperare per i prossimi mesi. Su tutto il settore auto poi c'è da dire che oggi c'è la notizia che riguarda Toyota. Nel 2013 ha registrato vendite che hanno sfiorato i 10 milioni di vetture, quindi un dato importante che conferma la casa giapponese nel ruolo di primo costruttore al mondo. E Fiat continua così la sua serie positiva che è iniziata dopo essere salita al 100% di Chrysler. Quasi altrettanto bene andava a Tenaris in giornata, poi comunque ha chiuso in positivo, più 1,8. Sì, infatti, è stata all'inizio la migliore del listino per buona parte della seduta, poi ha ripiegato un po'. Qui le notizie arrivano dai report degli analisti, sono usciti diversi report oggi e tutti scommettono su un 2014 di crescita. Mediobanca ha alzato il giudizio sul titolo a outperform dal precedente underperform, quindi sovrappesare in portafoglio. Equita ha portato la raccomandazione a buy, quindi acquistare, portando il prezzo obiettivo a 20 euro da 18. Il 2014, secondo gli analisti, sarà in crescita sia in termini di fatturato che di ricavi, quindi, che di redditività. C'è da dire che il 2013 è stato un anno particolarmente pesante, quindi anche in questo senso si tratterà di un anno di ripresa, quello che si apre adesso. Ancora titoli positivi, Unipol 6, un punto percentuale di guadagno. Qui sono arrivate ieri le dichiarazioni del presidente Fabio Cerchiai, che ha detto che a suo parere la vendita del portafoglio titoli ad Allianz, che è stata annunciata qualche giorno fa, è sufficiente per soddisfare le richieste fatte dall'antitrust. Questo è un tema che circola un po' da qualche mese. C'è stata la fusione tra Unipol e il gruppo Fondiaria Sai. L'antitrust ha dato l'ok, ma con questa condizione di una vendita di un portafoglio da 1,7 miliardi. All'accordo con Allianz è per una cessione di premi da 1,2 miliardi, ma pare che vada bene così, che l'accordo si faccia, e questo toglie un po' di preoccupazione sul titolo, che quindi chiude in rialzo. È sempre tra i migliori Finmeccanica. Finmeccanica continua a salire, anche qui chiude a più 0,54, andava molto meglio in realtà in mattinata. Un paio di giorni fa l'amministratore delegato ha confermato il deconsolidamento di Ansaldo Breda, Ansaldo STS, che è il motivo per cui il titolo sale in questi ultimi mesi, perché ormai se ne parla da tanto, ma oggi è arrivata la notizia di un fatturato record di ATR, che è una società partecipata da Airbus e da Elenia Aermacchi, che è una controllata di Finmeccanica, un fatturato di 1,6 miliardi di dollari, ottime prospettive per il futuro, e ecco qua un'altra seduta positiva per il titolo. Oh, veniamo ai titoli negativi, innanzitutto un po' tutto il lusso, a partire da Jux, meno 2,6%. Sì, qui il lusso, lo ricordiamo, ha fatto una buonissima fine d'anno l'anno scorso, continua a ritracciare con qualche sobbalzo nei giorni scorsi, un po' di recupero, ma continua a ritracciare dopo aver toccato quei massimi. E poi c'è da dire sul lusso che le notizie negative che arrivano dalla Cina comunque influenzano sempre questi titoli, e oggi il PMI non era certo positivo. Salini in pregilo. Salini in pregiro chiude in calo del 3,14%, sono arrivate oggi le dichiarazioni da parte del presidente di Panama in merito al contenzioso che c'è in atto per i lavori sul canale di Panama. Interpellato al forum di Davos, il presidente ha sottolineato che il contenzioso su questi extra costi del cantiere per l'ampliamento del canale va risolto all'interno di quanto prevede il contratto, quindi di fatto ha raffreddato un po' le ipotesi che si possano rivedere i termini del contratto, e questo sicuramente non è positivo per Salini in pregiro, che fa parte della cordata che sta lavorando all'ampliamento del canale. Grazie a Chiara Di Cristoforo di Radio Cori, Il Sole 24 Ore. L'euro quota 1,3674. Grazie Chiara, buonasera. Buonasera Simone, grazie. Ancora l'euro quota, si diceva 1,3674 contro dollaro. Gli altri titoli, negativi un po' tutte le banche. Comunque Banco Popolare giù del 2,6, Unicredit del 2,5, Popolare Emilia Romagna dell'1,7%, Mediobanca dell'1,2%, Mediolanum dell'1,22%. Questo è il quadro complessivo. Altri titoli negativi che non vi abbiamo dato: ST Microelectronics -2,12%, CNH -2,09%, di Luxottica e Ferragamo e Tots abbiamo detto World Duty Free -1,2%. Allora, noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade. Vedo che già arrivano delle domande. Dite, la deflazione che non deriva da un equilibrio a livelli più bassi tra domanda e offerta grazie alla concorrenza, ma dalla crisi occupazionale, è già una realtà, ci scrive Daniele dall'Aquila. Vediamo, i banchieri centrali, come si diceva, smentiscono. Il Fondo Monetario Internazionale vede evidentemente questi rischi, non solo a livello globale ma soprattutto per l'Europa, e su questo ci si sta concentrando, almeno parzialmente, al World Economic Forum di Davos. Dunque, fino al 25 gennaio, il 44esimo World Economic Forum. Il titolo è Rimodellare il mondo, conseguenze per società, politica ed economia. ...2500 delegati da tutto il mondo, 40 capi di Stato e di Governo, tra loro il Presidente del Consiglio italiano Letta, che arriverà, il giapponese Shinzo Abe, la presidente brasiliana Dilma Rousseff, il premier inglese David Cameron, il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, il direttore generale del Fondo Monetario Christine Lagarde. Vittorio Darold, inviato del Sole 24 Ore a Davos, buonasera. Buonasera a voi. Allora, si diceva che quello che il tema che rimane sotto traccia nella discussione economica a Davos, ma nemmeno troppo sotto traccia, è il tema appunto della deflazione. Dice il segretario generale dell'OCSE Gurria, non è un pericolo imminente. Draghi dice che i rischi di deflazione nell'area euro sono limitati, non lo fa in realtà da Davos ma in un'intervista con un quotidiano svizzero. Saccomanni dice c'è un rischio di deflazione? Direi di no. E però Olivier Blanchard, il capo economista del Fondo Monetario Internazionale, dice invece che qualche rischio c'è, tra un 10 e un 20% di rischi per quanto riguarda l'Europa. Io ricordo che i dati sull'inflazione di fine anno sono stati molto bassi, quelli diffusi dall'Istat, e che ci sono due città in deflazione conclamata, che sono Palermo e Venezia, per quanto può valere naturalmente la rilevazione da due città. Comunque questo tema sta un po' attraversando tutte le discussioni, Vittorio, no? Sì, esattamente. Ha cominciato ieri il premier giapponese Shinzo Abe, che è venuto qui proprio per rassicurare i mercati sulla sua riforma, sulla sua capacità di passare alla cosiddetta terza fase, quella cioè delle deregolamentazioni, e ha annunciato a sorpresa, essendo lui il massimo esperto di deflazione, come combattere l'orco della deflazione, perché è da 15 anni che il suo paese combatte contro questa situazione, ha deciso di far aumentare, di chiedere alle imprese nipponiche di aumentare i salari nei prossimi mesi. In cambio ridurrà la tassa, la pressione, diciamo, fiscale sulle imprese. Tutto questo per far aumentare i consumi e cercare di dare appunto un incremento all'inflazione. Qui a Davos molti dicono che Abe in realtà sta cercando di rispondere alle critiche, perché sta in qualche modo esportando la deflazione agli altri paesi. Secondo alcuni report di banche internazionali come Société Générale e SSBC, queste politiche monetarie molto forti del Giappone avrebbero in realtà abbassato prepotentemente i prezzi anche negli Stati Uniti e in Europa. Quindi la deflazione arriva anche da noi. Allora, giusto per chiarire poi agli ascoltatori che ce lo chiedono, perché c'è qualcuno che ci dice, insomma, gli economisti non sono mai contenti, prima si lamentano dell'inflazione, così come i banchieri centrali, prima si lamentano dell'inflazione che è troppo alta, poi dice si lamentano della deflazione. Naturalmente il problema è un punto di equilibrio. Certo è che una spirale deflazionistica, così viene chiamata, è estremamente pericolosa, innanzitutto per una questione di consumi, perché a un certo punto si tende a rimandare nel tempo gli acquisti nella convinzione che i prezzi scenderanno ancora, e dall'altra parte soprattutto per paesi ad alto debito come il nostro, Vittorio, no? Sì, esattamente, quando tu hai un debito le cose si complicano, perché la deflazione non ti aiuta, mentre l'inflazione ti fa diminuire il debito, essendo tu un creditore con l'inflazione riduci il tuo peso, invece con appunto un sistema di deflazione il tuo debito resta lì se non aumenta. Quindi è veramente la Christine Lagarde, il direttore generale del Fondo Monetario, l'ha definito esattamente l'orco, il prossimo orco contro cui bisognerà combattere. Quindi questo è il tema, un tema che poi porta anche a situazioni di, ad esempio, riduzione dei consumi, riduzione dei prezzi delle materie prime. Quest'anno, ad esempio, sul banco degli imputati non c'è più l'Eurozona, non c'è più naturalmente l'Europa, che è uscita appunto dalla crisi, anche se ancora non completamente, ma i problemi, le aspettative negative sono proprio sui mercati emergenti. Sotto osservazione ci sono quei paesi come l'India, la Cina, la Russia, l'Indonesia, la Turchia, che potrebbero avere problemi perché c'è una riduzione ad esempio del costo delle materie prime, della produzione. E addirittura qualcuno ipotizza che c'è in atto una sorta di ritorno della industrializzazione verso i paesi più maturi, perché ormai i costi del lavoro, i costi complessivi in questi paesi, l'efficienza complessiva in certi paesi non è più vantaggiosa. Proprio qui a Davos, dove era nata la globalizzazione, si comincia a parlare, insomma, di mercati emergenti non più così brillanti e interessanti come un tempo, anzi ci sono molte preoccupazioni che in alcuni di questi paesi possano esserci delle rivolte sociali determinate dai forti squilibri nei redditi, che appunto vedono nel Brasile ad esempio un elemento molto importante. Non a caso il presidente del Brasile, Dilma Rousseff, è qui, ed è qui dopo che 2 anni fa con molto orgoglio aveva rifiutato l'invito ed era andata a Cuba a seguire appunto un forum anticapitalista. Ecco, dopo 2 anni la Rousseff si è dovuta cospargere il capo di cenere e deve venire qui a convincere i CEO delle più grandi compagnie multinazionali nel mondo che il Brasile è un posto dove andare a investire, è un posto attraente. Ti ringrazio, grazie Vittorio Darold, inviato del Sole 24 Ore da Davos, buonasera. Prima di andare in pausa per il giornale radio, vogliamo parlare della situazione a Modena. Nel modenese, 1800 imprese ferme in seguito all'alluvione, all'esondazione del Secchia. Oggi abbiamo ospitato ad effetto giorno Erio Luigi Munari, che è il presidente di Confartigianato Imprese Modena e Reggio Emilia. Gli abbiamo chiesto tra le altre cose se è possibile fare una prima stima dei danni al territorio. La stima dei danni è in corso, però le posso garantire che abbiamo un territorio del 16% del settore agricolo, del 18% del manifatturiero, di un 22% dell'edile, di un 23% di commercio e di un ulteriore 20% sui servizi. Un'area densamente popolata di imprese, come abbiamo già avuto a dire con l'evento del sisma. Di conseguenza stiamo parlando di un'ulteriore disgrazia che è accaduta su delle imprese, su degli imprenditori che dopo 5 anni di crisi dal punto di vista di economia generale hanno subito il terremoto e oggi queste imprese in particolare stanno subendo un'inondazione. Ci saranno imprese costrette a chiudere definitivamente, secondo lei, dopo tutto questo? Allora, sicuramente in base alla risposta che danno le istituzioni, alla risposta che danno il contesto del credito, che oggi è difficilissimo averle, in base a tutti gli strumenti che anche l'associazione metterà in campo per supportare queste imprese, sicuramente ci saranno delle chiusure, ma soprattutto quello che io tengo a precisare, ci saranno delle chiusure perché gli imprenditori, dopo tutto questo, se non hanno una risposta concreta e focalizzata a dare respiro anche fiscale a un'area che è stata duramente colpita già da 2 anni in più questa esondazione, io dico che qualsiasi governo di fronte a queste catastrofi non può esimersi da non Munari, brevemente, cosa volete? Una sospensione delle imposte? Sì, noi chiediamo la sospensione, l'avevamo già chiesta per quello che riguarda il terremoto, ma in questo caso almeno 5 anni di esenzione di imposta per far sì che queste persone riprendano fiducia in un'economia e soprattutto in un sistema paese che purtroppo vedo che li sta abbandonando, e questo non è giusto da parte di qualsiasi governo. Questa impresa è andata tanto per 60 anni e vorrebbero continuare a lavorare. Sì, dunque Erio Luigi Munari, presidente di Confartigianato Imprese Modena e Reggio Emilia. Insomma, raccomandiamo di tenere l'attenzione su questa vicenda, lo ha già fatto anche oggi di nuovo Oscar Giannino, perché insomma è una di quelle cose che rischia di passare quasi sotto silenzio. E però la situazione è grave. Il presidente della provincia parla di centinaia di milioni di danni. Ed eccoci di nuovo, buonasera da Simone Spezia. 349-238-6666 per i vostri sms. Tra poco andremo a parlare della regione Sicilia. Il commissario di Stato per la regione Sicilia ha sostanzialmente bocciato più della metà della legge di stabilità, che è la legge di bilancio della regione Sicilia. Ne parleremo con l'assessore all'economia siciliano. I dubbi sono dubbi di costituzionalità, insomma. E però prima consentiteci un accenno ad un'altra notizia di giornata che riguarda molti contribuenti. Che è partita la sanatoria delle cartelle, lo ha annunciato Equitalia. Vale anche per le multe, scadenza il 28 febbraio. Giovanni Parente del Sole 24 Ore, ciao, buonasera. Buon pomeriggio, grazie. Benvenuto in studio. Allora, Giovanni, da dove nasce questa sanatoria innanzitutto? È una sanatoria prevista dall'ultima legge di stabilità, però bisogna dire una cosa, bisogna muoversi perché c'è davvero poco tempo per poter aderire. Il termine ultimo è il 28 febbraio 2014 e la particolarità è che si avrà uno sconto sulle cartelle di Equitalia, ma anche sugli avvisi esecutivi, nella parte relativa solo agli interessi, però va pagato tutto quello che bisogna pagare, quindi al netto degli interessi, entro il 28 febbraio in un'unica soluzione, quindi non sono possibili rateazioni da questo punto di vista per chi vuole aderire a questa sanatoria. Oggi è arrivato un chiarimento importante, atteso da parte di Equitalia, su quali sarebbero stati gli atti a cui si applicava la sanatoria. C'è una precisazione importante che in qualche modo potrà agevolare molti contribuenti, molti cittadini, e che è una applicazione attenzione anche attenzione alle multe per violazione del codice della strada elevate da comuni e prefetture. Qual è però la limitazione? È che non è sanabile tutto quanto l'importo, ma solo per quanto riguarda gli interessi di mora, che sono appunto gli interessi che si applicano per il ritardato o mancato pagamento. Allora, cosa riguarda questa sanatoria? Perché non è ricompreso tutto, no? No, non è ricompreso tutto, appunto. Mettiamo il caso che ho avuto una contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma lo stesso anche da parte di altre agenzie fiscali. Naturalmente l'Agenzia delle Entrate riguarda un po', può riguardare una platea più ampia di contribuenti. Non è stato effettuato il pagamento, l'importo è stato affidato per la riscossione Equitalia. In quel caso, appunto, la contestazione dell'Agenzia delle Entrate è passata a Equitalia, è diventata una cartella esattoriale e in questo caso, appunto, può essere sanata con questa procedura prevista dalla legge di stabilità. Senti, Giovanni, ma in questo caso non è più conveniente una rateazione classica invece che andare in sanatoria? Allora, qual è il problema della sanatoria classica? Sanatoria classica, scusatemi, della rateazione classica. La rateazione comunque prevede un pagamento degli interessi di mora e di iscrizione al ruolo. In questo caso, quello che abbiamo raccolto anche noi del Sole 24 Ore, può interessare quei lettori che hanno magari importi anche piccoli, che si trovano con la disponibilità economica adesso di pagarlo e vogliono chiudere per sempre il debito che hanno nei confronti di Equitalia. Equitalia oggi ci ha detto che oggi 23 gennaio, quindi praticamente quasi alla metà del cammino per effettuare la sanatoria, sono circa 200 i contribuenti, però potrebbero aumentare in vista della scadenza. Certo, insomma, evidentemente finora anche la scarsa pubblicizzazione non ha favorito l'appeal di questa sanatoria. Bisogna capire, insomma, qual è l'importo che si deve pagare e quanto effettivamente si risparmia in termini di interessi. In alcuni casi, insomma, in media si può oscillare fra il 10 e il 15%, quindi magari chi ha quella somma per chiudere i conti definitivamente con Equitalia preferisce farlo, chiudere per sempre le pendenze e non portarsi appunto le rateazioni, la rateazione, appunto il pagamento rateale. Bisogna però ricordare che allo stesso tempo sono diverse le possibilità di dilazione nel tempo delle cartelle, degli avvisi esecutivi con Equitalia. Insomma, ultimamente è entrata in vigore a inizio novembre anche la possibilità di una rateazione extra large, fino addirittura a 10 anni nel caso di peggioramento della propria condizione economica. In termini magari più ordinari c'è una rateazione a 72 mesi, sarebbero 6 anni, e in quei casi addirittura quando il debito non supera i 50.000 euro basta presentare una semplice istanza motivata, non bisogna presentare neanche tanta documentazione agli sportelli di Equitalia. Ecco, quindi è necessario in qualche modo verificare la propria situazione, verificare quanto liquidità si dia, farsi due ragionamenti, farsi due e capire anche in base al debito che si ha nei confronti dello Stato che cosa non viene fare. Grazie a Giovanni Parente del Sole 24 Ore e veniamo adesso alle questioni della Sicilia. Cosa è successo? Che il commissario dello Stato, qualcuno corregge e dice commissario di governo, non di Stato, no, è il commissario dello Stato, è proprio un organo costituzionale per la regione Sicilia. Ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale 33 dei 48 articoli della legge di stabilità approvata dall'Assemblea regionale il 15 di gennaio. Sono state bocciate tutte le principali norme. Allora, saluto Luca Bianchi, che è assessore all'economia della Regione Sicilia e è ancora vice direttore dello Svimez. Bianchi, buonasera. Buonasera, in aspettativa, aspetto di rientrare e finire questa esperienza. Inaspettativa. Un po' complicata. Lo Svimez era stato ospite in questa veste spesso ai nostri microfoni, ai microfoni di Radio 24 in genere, l'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno. Allora, Bianchi, le chiedo innanzitutto in 30 secondi una sua prima risposta a questa decisione del commissario di Stato e poi andremo nel dettaglio, perché c'è qualcosa che ho letto in questi ricorsi che ha presentato il commissario che mi interessa parecchio. Intanto una prima risposta. Ma siamo un po' stupiti, devo dire. Noi abbiamo avviato un'operazione di risanamento molto dura dei conti siciliani. I calcoli sono arrivati l'anno scorso, nel 2012, ha chiuso il bilancio con 1,1 miliardi di debito. Quindi abbiamo fatto un'operazione l'anno scorso di risanamento, quest'anno dovremmo chiudere il bilancio in equilibrio, e sul 2014 abbiamo provato a costruire una finanziaria che tenesse insieme ulteriori 400 milioni di tagli di spesa. Però a fronte di quello avevamo costruito una manovra che cominciasse a dare risposte anche al sociale, con una serie di interventi sulla casa, sul reddito minimo, sulle coppie di fatto, su una serie di interventi che potessero in qualche misura, e anche sullo sviluppo, sui fondi per il credito, che potesse nel frattempo sostenere un po' i redditi e quindi anche la ripresa economica. Questa operazione è stata completamente cassata da un intervento, diciamo, pesante del commissario dello Stato, che stranamente quest'anno, diciamo per la prima volta con una particolare attenzione, ha ritenuto non possibili nuove autorizzazioni di spesa. Eccoci di nuovo. Dunque, Bianchi, cosa intende per stranamente? Strano, perché questo era appunto, noi venivamo su un'operazione di risanamento che credo che per essere sostenibile deve esserlo economicamente e socialmente. Questa era l'operazione che potevamo fare. Noi ci costringono così a, diciamo, rimpinguare un fondo per, diciamo, i residui attivi precedenti. Cioè, noi dobbiamo caricarci improvvisamente quest'anno oltre 800 milioni di debiti del passato. Questo non è in questa fase economica sostenibile, secondo me interrompe un processo di risanamento, perché se lo rende insostenibile lo rende anche inutile. E quindi, diciamo, non ci aiuta in un'operazione che era quindi finalmente... per chiarirci, perché poi quando uno dice stranamente non sospetta una sorta di orientamento politico da parte del commissario di Stato? No, non è questo. Non è questo. Io credo che sia un problema di adattamento rispetto alla nuova situazione, cioè c'è stato un nuovo orientamento da parte della Corte dei Conti molto più rigido, e questo siamo molto d'accordo. Noi abbiamo passato la verifica l'anno scorso con delle obiezioni, abbiamo avviato un sentiero che va fatto in un tempo sostenibile. Allora, Bianchi, così. Poi dico stranamente per un'ultima cosa, perché poi lo sappiamo tutti, in passato sono state approvate finanziarie e bilanci in questa regione che hanno creato quei 10 miliardi circa di residui attivi che abbiamo in pancia al bilancio, che chiaramente rappresentano il peso del passato insostenibile. Vorrei partire, Bianchi, da quello che il commissario di Stato scrive in apertura di questo suo ricorso. Allora scrive: è imprescindibile che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della legge dimostri dettagliatamente e analiticamente che le nuove o maggiori spese correnti e le minori entrate trovino preciso e puntuale riscontro in risorse della medesima natura reperite nell'ambito dei contenuti della stessa finanziaria, come nuove maggiori entrate o riduzioni di spese. Quindi raccomanda un equilibrio finanziario, e che questo sia indicato nel prospetto riepilogativo. Condizioni queste che non appaiono essere soddisfatte dal legislatore. Bianchi, insomma, qua a me sembra che ci sia che ponga un problema, direi, discretamente forte, no? No, il problema lo pone, però ma esiste questo problema oppure no? Cioè, non c'è l'equilibrio in questa manovra? No, sì? L'equilibrio in questa manovra c'è. Il problema, facciamo un esempio concreto, lo capiscono tutti. Sono state impugnate la norma in finanziaria che autorizza la spesa di 180 milioni per i forestali. Secondo lei è una nuova autorizzazione di spesa? I forestali ce li siamo inventati noi? È ovviamente un rifinanziamento, peraltro con 60 milioni in meno dell'anno scorso, perché abbiamo fatto anche la riforma dei forestali, di questioni che chiaramente sono sul collo della regione da decenni, su scelte del passato. Quindi andiamo sui fatti concreti, non sulla... Lei non mi può dire che è una nuova autorizzazione di spesa, anzi è una riduzione di spesa rispetto a spese storiche consolidate negli anni, rispetto alle quali tutti devono assumersi responsabilità rispetto al passato, non al presente. Questo io dico, se vogliamo risanare una regione, questo è l'approccio che dobbiamo avere, se no facciamo finta di essere tutti nati oggi e dimenticarci quali sono la stratificazione delle scelte del passato. Senta, che tempi... Allora, questo è un ragionamento, devo dire la verità, in linea di massima condivisibile, nel senso che è chiaro che la Sicilia la raccontiamo quasi quotidianamente in questa radio, gli sprechi li abbiamo raccontati mille volte, quelli anche solo dell'Assemblea regionale siciliana, passando naturalmente dai famosi forestali che lei già citava. È chiaro che per rientrare da questi problemi non si può fare da un giorno all'altro, e questo naturalmente lo comprendo benissimo, però insomma non so come dire, a questo punto pubblicheremo la legge, togliendo le parti impugnate ovviamente. Ci troviamo di fronte però a un'emergenza sociale di carattere rilevantissimo, rispetto alle quali dobbiamo trovare un'altra modalità di risposta. Quanti soldi vi vengono a mancare? Perché l'opposizione, ho visto che parla di 558 milioni di euro complessivamente. Esattamente, circa 500 milioni vengono meno, nonostante gli altri 400 milioni di tagli già certificati sulla riforma dei forestali e il trasporto pubblico locale che noi abbiamo presentato a Roma, abbiamo tutte le varie riforme strutturali che stiamo portando avanti. È chiaro che non possiamo far pagare alle fasce più deboli un'operazione improvvisa di risanamento, così, diciamo, senza considerarne poi gli effetti sociali. Quindi dobbiamo a questo punto immediatamente discutere e trovare la copertura per un nuovo disegno di legge che trovi il finanziamento almeno per una quota consistente di queste spese. Non abbiamo alternativa, non possiamo non caricarci dell'emergenza sociale. Tra l'altro, in realtà il commissario salva una serie di norme all'interno, tra cui la stabilizzazione dei contratti di 24.000 precari, no? Esattamente, quello non è stata considerata nuova spesa, diciamo, anche lì c'è una discrezionalità nella scelta tra le varie voci su cui dobbiamo riflettere. Io chiedo infatti l'accesso agli atti che hanno portato alla decisione, alla scelta, che ovviamente se è del commissario dello Stato deve essere solo in base alle norme, non può essere di carattere selettivo o, diciamo, qualitativo, insomma. Quindi a cosa attribuisce questa discrezionalità? Non lo so, sinceramente fatico a capirla. Io sono contento che ovviamente anche su dovevamo dare risposta anche ai precari, anche questi, è una stratificazione del passato lunghissima, però appunto io credo che un percorso di risanamento debba avere una sua coerenza e una sua progressività, così non si aiuta. Io credo che allora se si faceva come nel passato, che si gonfiavano le entrate e poi si vedeva tanto ex post che mancava un miliardo, come succedeva di solito nel bilancio della regione, secondo me era più corretta aver fatto un'operazione pulita di risanamento delle entrate, di qualificazione del bilancio, in cui emergevano chiaramente qual era la situazione dei fatti e i risparmi di spesa, fin dove si poteva arrivare e qual era il percorso triennale che noi avevamo identificato. Su quello noi ci presenteremo al governo nazionale e dimostreremo il percorso che abbiamo fatto e poi troveremo una soluzione insieme, anche perché parliamo di una grande regione italiana che, insomma, credo debba avere una risposta anche di tipo nazionale. Sì, quindi adesso si apre un dialogo col governo da questo punto di vista. Ai molti ascoltatori che ci scrivono, guardate, insomma, sapete che qua, ripeto, la regione siciliana così come le altre regioni non vengono mai risparmiate, però vi segnalo anche che all'interno delle norme cassate della legge di stabilità, cassate dal commissario di Stato, ci sono anche dei tagli di spesa, nel senso che per esempio ha cassato la norma che limita i rimborsi chilometrici per i famosi forestali, no? Forestali, esattamente, figuriamoci, noi con quello risparmiamo oltre 10 milioni di euro, perché riducevamo della metà il rimborso chilometrico per i forestali, che abbiamo fatto i forestali a chilometro zero, diciamo così, ci siamo inventati per dare una battuta. Anche questo viene stralciato. Quindi diciamo è un'operazione che nega qualunque possibilità di gestione, di indirizzo politico a un governo legittimamente eletto. Quindi su questo io sinceramente lo ritengo un'operazione da verificare con la massima attenzione. E vi ha cassato anche dei tagli alla sanità? Ci ha tagliato alcuni interventi sulla sanità, ad esempio il tema dell'integrazione sociosanitaria, che era un tema di straordinaria rilevanza, peraltro sollecitataci dal Ministero dell'Economia, perché lei sa che siamo nel piano di rientro sanitario, abbiamo peraltro il bilancio della sanità in equilibrio finalmente, anche diciamo, in un'operazione di continuità tra il governo precedente e il nuovo sul tema della sanità, e anche queste sono improvvisamente state stralciate pur essendo concordate. Quindi credo che sia un po' scappata la mano, insomma. Oppure io, per una battuta, ho detto forse abbiamo mandato la finanziaria di 3-4 anni fa e ci siamo sbagliati, questa è la battuta che posso fare. Chiede un ascoltatore, dice, ma come si fa a dire che la stabilizzazione di 24.000 precari insomma non ha niente di nuova spesa? No, non ha nulla di nuova spesa, nel senso che è la spesa che purtroppo sosteniamo da moltissimi anni, peraltro il piano di stabilizzazione è chiaro che in prospettiva che crea anche un risparmio relativo alla riduzione dell'orario che è previsto nel processo di stabilizzazione. Quello dei precari è un percorso di lunghissimo periodo su cui appunto piano piano cercheremo di ridurre la spesa, però diciamo è una spesa, non è nuova, nel senso che è consolidata ormai da tantissimi anni. Ultima domanda, Bianchi, che tempi prevede? Prevedo tempi rapidi, perché noi dobbiamo approvare il bilancio, perché siamo senza bilancio in questo momento, e quindi a brevissimo la pubblicazione con eliminando le norme, e credo una riunione a brevissimo tempo col governo nazionale per cercare di uscire da questo impasse e per proseguire il percorso che stiamo portando avanti, che siamo convinti sia veramente di cambiamento, da tutti i punti di vista, della legalità, del risanamento, della qualità, insomma, dei rapporti con i cittadini. Su questo siamo convinti. Quando? Settimana prossima col governo, immagino, a questo punto? Penso di sì, il presidente Crocetta si è messo subito in contatto al presidente del Consiglio, la vediamo brevissimo. Grazie Luca Bianchi, assessore all'economia della Regione Sicilia. Buonasera, grazie a Pietro Lacorte, in regia Alessandro Jacopini, Mauro Del Corno, Barbara Bianchi in redazione, a tutti voi per l'ascolto. Ci risentiamo domani alle 13 con Effetto Giorno. Radio 24, la passione si sente.